soltanto concludere, nel senso che magari porto il lato più romantico e epico di questa storia. Ci troviamo comunque in mezzo, cioè nel pieno della Scozia, che è veramente una figata, tra mare e colline, e sotto un cielo che non diventa mai veramente scuro. Volevamo dirvi questo. Yankee Go!